piccole città comunque relativamente strategicamente importanti nel delta del Nilo, dove ci sono state appunto manifestazioni e proteste. Stiamo parlando del delta del Nilo, quando parliamo di delta del Nilo ci riferiamo in principal modo a città con grandi insediamenti industriali che sono stati teatro delle rivolte, come vedremo nei prossimi minuti, negli ultimi anni, da parte di popolazione che appunto rivendicava faceva comunque, portava avanti rivendicazioni di carattere socio-economico, che hanno partecipato comunque alla protesta anche in questi giorni. C'è stata appunto sì un'evoluzione della protesta nell'ultima settimana, in particolar modo, come diceva prima Salvatore, ci sono stati appunto degli attacchi mirati alla stampa, quindi straniera in particolare. Ieri sentivamo da France 24 anche delle testimonianze di giornalisti di France 24 che sono stati tenuti in fermo anche per 36 ore, bendati, dove appunto hanno descritto tutte anche le umiliazioni che hanno subito, le violenze che hanno subito da parte di queste forze che ancora non si riescono bene a definire. C'è chi dice che sono appunto dei servizi di Mubarak, c'è chi dice che era una parte dell'esercito, quindi ancora la situazione non è chiara. È importante sottolineare come dopo il discorso di Mubarak del primo febbraio si sia scatenata appunto questa controrivoluzione, potremmo chiamare controinsurrezione, anzi, perché di rivoluzione effettivamente non si può ancora parlare, con queste milizie, davvero delle squadracce, non possiamo non definirle a mio avviso fasciste, perché comunque davvero azioni di squadrismo all'interno della piazza e non solo. Nell'ultime due notti ci sono state anche delle perquisizioni in alcune case di stranieri. Io personalmente conosco di alcune ragazze e di alcuni ragazzi che sono stati appunto presi nelle loro case e portati in alcune centrali di polizia. Sinceramente non so ancora che fine abbiano fatto due miei amici, tra cui questo Mario Michelini, spero di sentirlo presto. Comunque solidarietà a tutti loro che hanno tentato e stanno tentando di fare dei reportage più obiettivi sulla situazione in Egitto. Oltre a questo, alcuni altri fenomeni è necessario comunque evocarli, perché ci permetteranno poi di comprendere quali sono le forze in campo. Anzitutto appunto l'esercito che ha fino adesso adottato un atteggiamento abbastanza ambiguo, da una parte per il timore della popolazione, che comunque teme in realtà una forte repressione da parte dell'esercito, e che ha cominciato sin dal 25 gennaio, ha cercato di metterselo dalla propria parte. Ricordiamo la funzione dell'esercito anche nel contesto tunisino, che abbiamo già ricordato nelle puntate precedenti, dove appunto sembra sia quasi l'arbitro della situazione. L'esercito che, quando sono nate queste manifestazioni pro Mubarak di prezzolati del regime, ha lasciato fare, non si è messo a difesa della popolazione, quindi questo c'è da dirlo, una posizione neutrale quasi in attesa di ordini dall'alto. Quindi una posizione ambigua che dovrà essere verificata anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Allo stesso tempo è importante sottolineare un evento che si è appunto prodotto ieri. Questa famosa personalità dell'Islam di Stato, il Mohammed Refa Tahtawi, che era appunto il capo dell'università di Al-Azhar. Al-Azhar, per chi non... È un grande teologo. Sì, un grandissimo teologo, ed era capo della principale università islamica del Cairo, che ha un prestigio internazionale, si formano studenti da tutto il mondo, quindi ha anche un forte potere simbolico all'interno del mondo arabo-islamico più in generale. Tahtawi, che ha rassegnato le proprie dimissioni come appunto presidente, portavoce ufficiale, scusate, di Al-Azhar, e che è sceso in piazza con la popolazione. Vedremo poi, cercheremo anche di interpretare questo gesto. I fratelli musulmani ieri proprio hanno subito una fortissima repressione anche all'interno dello stabilimento, del palazzo dove è presente insomma tutto l'organigramma che gestisce il sito dei fratelli musulmani in inglese, dove ci sono stati appunto una serie di arresti. Quindi anche qui la posizione dei fratelli musulmani dovrà essere un attimo analizzata in maniera più approfondita, per comprendere gli esiti di questa insurrezione, come loro hanno partecipato e parteciperanno in prospettiva alle insurrezioni, alle giornate di mobilitazione delle settimane e dei prossimi giorni. Ora, dobbiamo dire anzitutto una cosa: come abbiamo fatto con la Tunisia, cercheremo un attimo di mettere in collegamento questi eventi con quanto avvenuto in passato. Partiamo dagli ultimi 10 anni. che sono stati comunque, hanno giocato un ruolo fondamentale nel processo di disgregazione e di smantellamento proprio del regime di Mubarak. In particolare vi sono state due grandi mobilitazioni, o meglio due processi che hanno portato poi, concretizzatisi poi in differenti mobilitazioni. Da una parte mobilitazioni che potremmo definire per la rivendicazione di diritti civili e politici, dall'altra mobilitazioni di carattere prettamente, che hanno portato avanti delle istanze di carattere prettamente socio-economico. Questi due movimenti, questi due processi sono paralleli, sono stati paralleli, raramente si sono in realtà incontrati. Questa è una prima considerazione da fare, ma entriamo un attimo nel dettaglio. Cominciamo dalle proteste che hanno portato, che portavano avanti istanze di carattere appunto politico, comunque per ottenere una maggiore garanzia di diritti civili e politici. Queste manifestazioni si sono prodotte in particolar modo a partire dalla fine del XX secolo, quindi 98-2000, con un'accelerazione che è avvenuta appunto dal 2002-2003. Poi 2004-2005 c'è stato proprio l'apice di queste manifestazioni. Quali erano gli attori principali in campo? Stiamo parlando principalmente di società civile egiziana di carattere laico, ma prettamente laico, anche se poi vi si sono accodate organizzazioni di assistenza di carattere prettamente religioso, soprattutto legate ai Fratelli Musulmani, e esponenti degli ordini professionali, in particolare magistrati, avvocati, ingegneri. Dovete sapere che in Egitto ancora oggi vi sono delle corporazioni di mestiere, come in tempi andati anche in Italia, corporazioni di mestiere che hanno dei propri sindacati, molto spesso, o meglio, da sempre inquadrati all'interno del regime, che aveva esercitato un controllo stretto almeno fino alla metà degli anni Ottanta. Hanno esercitato rivendicazioni importanti, soprattutto per evitare la riconferma di Mubarak al potere, rivendicazioni importanti anzitutto da parte dei magistrati, che dopo i brogli elettorali da sempre prodottisi in Egitto rivendicavano un maggior controllo del processo elettorale, che riuscirono ad ottenere proprio per le elezioni del 2000 un controllo maggiore da parte dei magistrati e non più di esponenti del governo. Una magistratura che si è progressivamente politicizzata, naturalmente sempre per una equa garanzia dei diritti civili, quindi nessun tipo di prospettiva politica di lungo periodo, solo stiamo parlando di rivendicazioni civili, quindi elezioni non truccate, una maggiore partecipazione democratica all'interno delle corporazioni professionali. Hanno denunciato i brogli che il regime ha tentato di applicare nonostante queste restrizioni e questo controllo che i magistrati potevano esercitare dal 2000 in poi, e hanno continuato a protestare anche negli anni successivi. Si sono sempre fermati a delle manifestazioni pacifiche, molto spesso sostenute da altri movimenti che descriveremo in seguito, ma che comunque non hanno avuto un sostegno di massa da parte delle popolazioni come quello che possiamo vedere negli ultimi giorni. Oltre ai magistrati dobbiamo ricordare poi il movimento Kifaya, che nel 2004 è nato come movimento di solidarietà per la questione palestinese. Kifaya, come diceva pure prima, ricordava Salvatore, significa basta, è sufficiente, insomma, nel senso proprio in maniera quasi esclamativa di liberazione, no? di voler smettere di volerla smettere con questo regime. Un movimento che potremmo definire trasversale, però sempre all'interno della classe più istruita egiziana. Stiamo parlando di professionisti che rivendicavano una maggiore libertà dei diritti civili e che è stato animato da profonde contraddizioni interne. Se pensiamo che i Fratelli Musulmani avevano aderito al manifesto iniziale, che poi successivamente non avevano partecipato a tutte le manifestazioni, che lo stesso movimento non era riuscito anche lui a convogliare la massa del popolo egiziano e a sensibilizzare queste masse per risolvere, o comunque per rivendicare questo tipo di diritti. Accanto a questo tipo di movimenti, quindi civili, che hanno avuto il loro apice dal 2004 al 2005, dobbiamo ricordare poi tutta una serie di manifestazioni che si sono prodotte veramente importanti e che sono state pressoché ignorate in Italia ed in Europa dal 2004 in poi, soprattutto nelle zone industriali dell'Egitto, quindi in principal modo concentrate sul delta del Nilo, ma anche nelle zone, nei dintorni, nei sobborghi del Cairo, in alcune zone dove l'industria egiziana, avviatasi soprattutto all'epoca di Nasser, ha portato uno sforzo industriale forte, con un forte processo di industrializzazione. Quali erano queste, che tipo di manifestazioni, di mobilitazioni si sono prodotte? Dal 2004 in poi, inizialmente diciamo, gli operai egiziani del settore pubblico, ricordiamo che l'Egitto ha ancora oggi una forte partecipazione pubblica in alcuni settori chiave dell'economia egiziana, come per esempio il tessile, si sono prodotte appunto queste manifestazioni che rivendicavano un miglioramento dei salari, delle condizioni quindi di lavoro. Manifestazioni che 2004-2005 hanno prodotto degli scioperi importanti, con migliaia di persone che si sono comunque mosse all'interno delle varie fabbriche, ricordiamo per esempio Kafr Dawar, Mahall El Kubra, tutte zone appunto dove ha forte concentrazione operaia. Queste manifestazioni hanno poi avuto un apice tra il 2006 e il 2007. Ricordiamo fino appunto allo sciopero generale che è avvenuto il 6 aprile del 2008, scusate, data fondamentale perché da quello sciopero generale è nato un movimento, il movimento del 6 aprile, che ancora oggi è attivo durante le manifestazioni alle quali stiamo assistendo in questi giorni. Scusa, una domanda, ma quanto, certo. Dal punto di vista statistico, quanto ammonta, diciamo, la classe operaia, comunque i lavoratori salariati e il mondo contadino nell'Egitto attuale? Allora, non ti posso dire esattamente le percentuali. È vero che nella zona del delta del Nilo, anzitutto la distribuzione geografica delle industrie è molto diseguale. Tutto si concentra tra la zona del delta del Nilo, come dicevo prima, i sobborghi del Cairo. La parte invece più rurale segue anche l'Alto Egitto. L'Alto Egitto sarebbe appunto verso Luxor, quindi diciamo la direttiva dal Cairo verso il Sudan praticamente. Quindi un forte disequilibrio dal punto di vista delle concentrazioni. Disequilibrio con delle forti concentrazioni in alcune città, che ha provocato anche negli anni passati, quando è avviata questa politica di industrializzazione, ha degli stretti legami tra centri urbanizzati, piccoli villaggi urbanizzati e industrializzati, legami con la popolazione rurale nei dintorni. Devo dirti la percentuale non te la posso dire perché direi una cavolata, però l'importante è soprattutto comprendere come la popolazione egiziana abbia sfruttato in parte comunque le concessioni o le industrializzazioni che furono fatte da Nasser negli anni 60, soprattutto fine anni 50, inizio anni 60, e che hanno portato a una fortissima trasformazione dell'economia egiziana. Ricordiamo, negli anni 50 si ammontavano più o meno al 3% della popolazione totale, sicuramente oggi siamo oltre secondo me il 15%, insomma 15-20%. Il problema è che sono molto concentrati in alcune zone. Ecco, e sono organizzati questi, cioè l'organizzazione sindacale di queste aree urbane? Il problema è proprio questo, e quindi qua possiamo fare anche un attimo un passo indietro per arrivare all'epoca nasseriana. Fino all'epoca, allora, una piccola serie di date per rendere un attimo il quadro più chiaro a chi ci ascolta. Dal 22 al 1952 l'Egitto ha attraversato la cosiddetta fase liberale. Per fase liberale si intende una monarchia una monarchia costituzionale, scusate, con un Parlamento sul modello proprio occidentale. All'epoca ancora vi era una forte presenza coloniale britannica, e quindi anche le elite politiche presenti, il panorama politico rispettava i canoni e il linguaggio del mondo secolare europeo. Dopo il 52 abbiamo appunto il colpo di Stato dei cosiddetti ufficiali liberi, di cui fanno parte tutti i leader, i presidenti della Repubblica Egiziana fino ad oggi, quindi prima Naguib per 2 anni, dal 52 al 54, dal 54 al 70 Nasser, 70-81 Sadat e poi Mubarak fino ai giorni nostri. Questo è importante per comprendere anche le fasi economiche che ha attraversato l'Egitto da quel momento in poi, dal 52 in poi. Fino al 52 un'economia quindi aperta completamente ai mercati occidentali, anzi dipendente completamente dai mercati occidentali, con delle città in particolare dove la presenza europea, la presenza straniera coloniale era preponderante, quindi le zone del canale, Alessandria d'Egitto e in parte il Cairo. Dal 52 in poi invece comincia una fase di, potremmo definire, capitalismo di Stato, anche se Nasser comunque si fece promotore di un socialismo arabo, che se vogliamo poi potremmo dovremmo anche approfondire. Questo capitalismo di Stato ha portato a un forte processo di industrializzazione, quindi alla costruzione vera e propria di una classe guidato operaia, dall'alto, però guidato dall'alto. Perché? Perché Nasser, che si fece promotore di questo socialismo arabo in tutto il Medio Oriente, nel mondo arabo, in realtà diceva sempre: io agisco per il popolo, ma non, appunto, non sottolineava che appunto, non attraverso il popolo e non con il popolo. Lui si sentiva garante, assieme a tutto l'esercito e agli ufficiali liberi, della rivoluzione e dell'indipendenza nazionale egiziana, però non ha mai consultato veramente le masse. Fece dei provvedimenti, o tentò comunque dei provvedimenti di nazionalizzazione, o comunque che potremmo definire socialisti, per esempio la riforma agraria degli anni 50. Fu un tentativo importante, anche se le conseguenze nel lungo periodo si è potuto assistere ad una, come dire, inefficacia di questa riforma, che creò in realtà uno spezzettamento della proprietà privata in piccoli lotti e che non riuscì veramente a intaccare il latifondo egiziano nel suo complesso, ma solo in alcune regioni. Piccoli lotti che venivano appunto affidati a dei contadini che però non riuscivano con questi piccoli appezzamenti di terra a soddisfare le proprie esigenze di vita, quindi in realtà ad un impoverimento, contadini che poi erano ancora maggiormente ricattati da un'economia di mercato che comunque persisteva e da grandi latifondisti che avevano mantenuto il potere nonostante la riforma agraria, che potevano poi nei decenni successivi, negli anni successivi, riassorbire queste piccole proprietà. Queste sono alcune tappe fondamentali che ci interessano per comprendere meglio quali sono stati poi i movimenti di rivolta, le mobilitazioni che si sono prodotte dall'epoca di Nasser in poi. Anzitutto c'è da dire che, ritornando appunto alla domanda sulle rappresentanze sindacali, quando dicevamo prima che Nasser conduceva la propria battaglia politica per il popolo e non con il popolo, ecco, questa frase emblematica si può benissimo dimostrare con l'attività dei sindacati e l'attività partitica all'interno dell'Egitto dell'epoca. Si crearono appunto dei sindacati nazionali gestiti dal partito unico, comunque dal regime, che dovevano in realtà cooptare tutte le spinte che dal basso potevano essere si potevano provocare, anche perché il malcontento, soprattutto negli anni 60, quindi nella seconda fase dell'epoca nasseriana, crebbe in maniera esponenziale. Questi sindacati riuscirono per un periodo abbastanza lungo, considerevole, quindi una decina d'anni, a mantenere le spinte che la popolazione a conservare, a bloccare le spinte che dalla popolazione venivano e le richieste che dalla popolazione venivano. Ci furono tuttavia delle sommosse sporadiche, che purtroppo non potevano essere incanalate, non potevano essere coordinate tra di loro a causa della mancanza di attori politici o partitici in grado di contendere o di fare concorrenza al regime nasseriano e all'apparato burocratico che Nasser riuscì a costruire. Ricordiamo per esempio nel 65 la rivolta di Damietta, che è una città, Damietta o Damiata, dipende dalla traslitterazione che si vuole dare al termine, questo famoso porto egiziano, il più importante dopo quello di Alessandria fino all'inizio del XX secolo, e che poi naturalmente ha subito una fase di declino, soprattutto con lo sviluppo del canale di Suez, quindi Ismailia, Port Said e appunto Suez stessa. Una rivolta nata anche questa da rivendicazioni prettamente socio-economiche e che purtroppo fu repressa nel sangue, questo nel 65, ma anche nella zona del canale. Ricordiamo nel 66 ancora un'altra rivolta importante degli scaricatori del porto, che cercavano e reclamavano un maggiore potere economico. Quindi ci sono stati comunque dei momenti, soprattutto dalla metà degli anni 60, di tensione tra il regime nasseriano e la popolazione. Tensioni che si acuirono soprattutto appunto nella seconda metà degli anni 60, quando il regime nasseriano mostrò le prime crepe, sia a livello internazionale che a livello interno. Ricordiamolo un attimo: a livello internazionale, 67, la guerra dei sei giorni, sconfitta dell'Egitto, un massacro totale e soprattutto un colpo durissimo alla visibilità internazionale di Nasser, che aveva fatto del panarabismo, ovvero di questo movimento di lotta e di coesione di tutte le popolazioni arabe del terzo mondo, comunque all'epoca, che stavano uscendo da poco, erano usciti dall'epoca coloniale, aveva fatto quindi il suo grido di battaglia, la sua parola d'ordine. Quindi a livello simbolico, all'interno del mondo arabo-islamico, Nasser viene delegittimato fortemente, dal 67, con un precedente importante che fu la cosiddetta RAU, la Repubblica Araba Unita, che si costituì nel 58 tra la Siria e appunto l'Egitto, e che fu un esperimento che fallì miseramente dopo 3 anni, quindi nel 61. Quindi da una parte a livello internazionale. A livello interno, il modello nasseriano di redistribuzione delle ricchezze, di capitalismo di Stato, naturalmente come lui lo definiva, cioè redistribuzione delle ricchezze, che poi in realtà era una redistribuzione pressoché fittizia, non funzionava. Sacche della povertà ce ne stavano e crescevano maggiormente. Oltretutto vi era stata una massificazione, un allargamento della partecipazione della popolazione alla istruzione pubblica, questo grazie appunto all'università, che era divenuta gratuita. E la scuola fu fatta un po' sul modello sovietico. Sì, assolutamente sul modello sovietico. Ricordiamo appunto che, anzi, molti burocrati dell'epoca, che poi faranno parte del regime nasseriano, andarono a studiare a Mosca, nell'URSS. Lo stesso Suleiman, che oggi è appunto sulla ribalta di tutti i quotidiani internazionali, appunto studiò all'Accademia Militare di Mosca. Quindi in realtà c'era un forte legame con l'Unione Sovietica, soprattutto nel modello economico e sociale. Quindi una contestazione che era cominciata dalla metà degli anni 60, metteva in risalto i difetti del regime nasseriano, una contestazione che si sviluppò tantissimo dopo appunto il 67, dopo la guerra dei sei giorni, soprattutto nel 68 ebbe il suo apice, il famoso 68 egiziano, che in realtà ha poco a che vedere con le rivendicazioni che si sono sviluppate in Europa o negli Stati Uniti all'epoca, ma che comunque faceva parte di un fermento internazionale, di una maggiore rivendicazione di diritti da parte degli studenti. Nacque dagli studenti, ma non solo, i principali soggetti delle insurrezioni davvero pesanti, che portarono anche degli scioperi generali, a delle manifestazioni di solidarietà tra studenti ed operai della zona del Delta del Nilo, con l'occupazione dell'Università del Cairo per 3 giorni. Quindi insomma manifestazioni importanti che furono purtroppo represse anche queste nel sangue. Dopo il 68, ricordiamo, Nasser appunto delegittimato, addirittura dopo il 67 aveva rassegnato le dimissioni, ma per volere popolare, per appunto con queste grandi manifestazioni di massa, rimase al potere fino alla sua improvvisa morte nel 70. Da lì in poi comincia una nuova fase dell'Egitto, che si riprenderà con appunto con Sadat, e lo vediamo però magari un attimo dopo una breve pausa. سفل ورقيد النيت سيري ورني جنيت ورد اسمع داخل هارد سيري ورني جنيت ورد اسمع داخل هارد نقلاوة تمشي شوارد نقلاوة تمشي شوارد torniamo quindi a parlare dell'Egitto, della sua storia, per tentare di comprendere meglio quanto sta accadendo in questi giorni. Abbiamo fatto una piccola sintesi di quello, naturalmente superficiale, di quello che è accaduto durante l'epoca nasseriana. L'epoca nasseriana è importante, come abbiamo detto, per, soprattutto per questa cooptazione, questa gestione verticale delle istanze che il popolo in realtà aveva tentato di portare avanti anche negli anni 60. Una gestione verticale che si smantellerà gradualmente sotto l'epoca di Sadat. Nasser lascia, muore appunto nel 1970, Anwar el-Sadat, uno degli altri ufficiali liberi che fecero parte, che parteciparono al colpo di Stato del 1952, prende il potere. Sadat tenterà progressivamente negli anni 70 di allontanarsi da quella propaganda socialista, da quel discorso socialista di Nasser, però non subito, anche perché tutti i regimi, tutti i presidenti egiziani tenteranno sempre in una prima fase di mantenere un profilo basso per aumentare il proprio consenso sociale. Quindi inizialmente in realtà Sadat farà degli emendamenti alla Costituzione nel 71, la cosiddetta Costituzione permanente, tenterà di cominciare un processo di liberalizzazione, ma mantenendo per esempio sempre il carattere, o meglio l'etichetta di socialista. In realtà dal 71 in poi Sadat aprirà veramente, sostanzialmente, il mercato egiziano, il paese al mercato internazionale, in maniera in realtà scriteria, senza un vero criterio, se non quello di soddisfare le esigenze che venivano dal contesto internazionale, in particolare dalle potenze occidentali. Sadat non cercherà progressivamente di allontanarsi dall'URSS, sempre in maniera graduale, anche perché aveva bisogno delle armi dell'URSS, delle armi sovietiche, per il conflitto ancora in corso con Israele, per le tensioni che si verificavano ancora con l'autoproclamato Stato di Israele, e allo stesso tempo adotta quella cosiddetta politica di infità, ovvero di apertura dei mercati. Una parentesi, perché certo. Per conoscenza, io ho letto da qualche parte appunto di questo periodo che è il momento in cui fece questa trasformazione Sadat nell'entità, sì, appunto, e quindi ribadì il capitalismo liberale, il capitalismo come lo conosciamo noi, mentre quello era di Stato, quello, sì, di Nasser, sì, sì, chiese aiuto sul piano ideologico proprio ad Al-Azhar, l'università, cioè, sì, i maggiori teologi dell'Islam, visto che è un paese molto religioso l'Egitto, diedero diciamo il destro a Sadat a dire che il capitalismo di Stato, quel sistema controllato di Nasser, non era secondo i dettami dell'Islam, mentre il capitalismo liberale, liberista, era più in contro ai regimi dell'Islam. Assolutamente sì, è vero, anche perché allora in tutti i paesi del mondo arabo islamico il ruolo del cosiddetto Islam di Stato, Islam istituzionale, è stato fondamentale per legittimare delle scelte molto spesso impopolari, ingiuste. Questo è successo non solo in Egitto, in Arabia Saudita, ma anche in altri contesti del Mediterraneo arabo islamico. Sadat, a differenza di Nasser, voleva cercare un modello di legittimazione che si distinguesse da quello nasseriano. Quello nasseriano parlava di un socialismo islamico, anche lui diceva appunto che era caratterizzato in primis per un'assenza di conflitto di classe, per una non condanna in realtà della proprietà privata, ma Sadat va oltre. Sadat si vuole presentare, si presenta alla popolazione egiziana come il presidente credente, colui che va il venerdì alla preghiera, si mostra appunto un presidente pio, e tenterà in questo modo di scardinare quella legittimazione e quell'identità nazionale fondata su comunque valori prettamente secolari, anche se con una strumentalizzazione del discorso religioso. Ed è per questo che chiese aiuto all'Islam di Stato di Al-Azhar, no? Come appunto dicevamo in precedenza. Questo discorso della strumentalizzazione dell'Islam apre una parentesi, per questo dobbiamo aprire una parentesi importante soprattutto sui cosiddetti movimenti di contestazione islamista, che proprio in questo periodo, dopo la parentesi nasseriana di forte repressione, riprendono forza. Sadat sosterrà movimenti islamisti all'interno dei principali apparati creati appunto all'epoca nasseriana per corrodere la base nasseriana ancora presente dopo la caduta di Nasser nella società egiziana, la cosiddetta borghesia di Stato, quella burocrazia che manteneva una grandissima fetta della popolazione, soprattutto a livello urbano. Cosa fece Sadat? All'interno dei circoli universitari, per esempio, cominciò a screditare, a ridurre i fondi delle strutture che il regime di Nasser aveva costituito all'interno degli organismi universitari, aumentò, diede, come dire, concesse maggiore libertà di azione anche all'interno degli, delle corporazioni sindacali, che fino a quel momento, come abbiamo detto prima, erano completamente monopolizzate dal regime, lasciando libertà di movimento a questi movimenti islamisti in funzione antinasseriana. Una politica in realtà cieca, di breve periodo, che si ritorcerà contro lo stesso Sadat, soprattutto dalla seconda metà degli anni 70, quando la contestazione contro, appunto, nei confronti, contro il regime, sarà caratterizzata anche da la presenza di movimenti islamisti forti, radicati nella società, e che proponevano un'azione dal basso fino a quel momento, che fino a quel momento non si era provocata. Ricordiamone alcuni importanti. Allora, da una parte vi erano i Fratelli Musulmani, nati nel 28 e che sotto Nasser furono fortemente repressi nel sangue, e che dovettero per questo smantellare completamente, furono costretti a smantellare completamente la loro struttura. Ricordiamolo, una struttura capillare che era riuscita fino agli anni 50 ad essere percepita dallo stesso regime di Nasser, che comunque andava al potere, come necessaria al consolidamento e alla legittimazione del potere del regime. Una struttura che proprio negli anni dell'epoca liberale in realtà aveva adottato delle pratiche quasi, potremmo definire quasi socialiste o comunque cooperativiste nella gestione di alcuni settori dell'economia per l'autofinanziamento del movimento stesso. Movimento che dopo le forti ondate di repressione di Nasser negli anni 70 era completamente terrorizzato da una seconda ondata di repressione che Sadat avrebbe potuto portare avanti nei loro confronti, ed è per questo che in realtà il movimento dei Fratelli Musulmani negli anni 70 non è un movimento protagonista della contestazione islamista, tutt'altro, è un movimento di raccordo. Sadat cercherà molto spesso la mediazione dei Fratelli Musulmani per calmare quelle cellule islamiste che in realtà si stavano sviluppando nelle università egiziane soprattutto, e che in realtà rivendicavano una maggiore contestazione e una maggiore, un'azione più diretta contro il regime sadatiano. Quindi i Fratelli Musulmani in questi anni 70 sono in una fase di debolezza e quindi tentano di stabilizzare, di mantenere le acque calme. Vi sono altre cellule importanti, altri movimenti importanti, le cosiddette Jamaat Islamiya, che erano appunto le organizzazioni islamiche che nacquero all'interno delle università. Queste organizzazioni, finanziate come vi ho detto da Sadat già dall'inizio degli anni 70, prendono il sopravvento rispetto a quelle più laiche dalla seconda metà degli anni 70. Le loro rivendicazioni partivano da appunto rivendicazioni di carattere pratico, di sostegno agli studenti, perché comunque la scolarizzazione di massa che era nata e che era, e si era prodotta all'epoca nasseriana, aveva portato ad un vero e proprio imbuto, con una popolazione giovanissima di studenti che uscivano dall'università e che già durante l'università si trovavano in condizioni precarissime, perché i fondi poi furono progressivamente ridotti, ma che anche dopo aver ottenuto comunque un diploma universitario, un certificato universitario, una laurea, non sapevano come essere assorbiti dal mercato del lavoro interno. Ed è lì che le cellule appunto delle Jamaat Islamiya prendono piede e ottengono forti consensi all'interno della popolazione, fino ad arrivare a delle contestazioni durissime, soprattutto negli anni 78-80. La politica di queste organizzazioni però era una politica che si fondava quindi sull'azione dal basso. Vi erano in realtà altri movimenti islamisti che nacquero in quello stesso periodo e che speravano che, decapitando il cosiddetto faraone, come veniva definito, l'Egitto avrebbe potuto diventare uno Stato islamico. Quindi non serviva per loro era necessaria una semplice presa del potere, senza una costruzione di consenso dal basso come promosso dalle Jamaat Islamiya. Stiamo parlando in principal modo del movimento Jihad, che fu poi protagonista dell'assassinio di Sadat nell'81. Quindi una galassia di differenti movimenti. Ora, senza andarne a citare altri, forse l'ultimo importante è quello che veniva definito Takfir wal-Hijra, che era appunto un movimento guidato da questo Shukri, che in realtà predicava addirittura una completa separazione dalla società egiziana. La società egiziana, in quel momento considerata miscredente, non si dovevano quindi avere contatti con questa società. Si costituivano addirittura delle piccole cellule collettive che vivevano ai margini della società, società stessa, andavano a lavorare addirittura all'estero questi membri di queste società e dovevano poi portare i soldi per portare i soldi all'interno di queste collettività in Egitto, rifiutavano il servizio militare, quindi un atteggiamento di completa alienazione dalla società egiziana. Quello che ci interessa comprendere è come in realtà da questi tre movimenti che vi ho detto, comunque da questa parcellizzazione della contestazione islamista negli anni 70, anzitutto si provocherà appunto la morte di Sadat, l'assassino del presidente, ma non solo, negli anni 80 successivamente, quando Mubarak prenderà il potere, a poco verranno invece questi movimenti riassorbiti, o comunque la contestazione islamista sarà riassorbita dal movimento dei fratelli musulmani. Sì, ricompatta tutto, soprattutto in una logica di contestazione del potere, che però non voleva o comunque non cercò subito uno scontro diretto col regime. Anzi, la stessa fratellanza musulmana negli anni Ottanta era, come dire, in buonissimi rapporti con Mubarak. Nella prima elezione presidenziale, quindi nell'87 se non sbaglio, addirittura lo rielessero, quindi loro parteciparono e dissero che bisognava votare per Mubarak e per la sua rielezione. Il problema verrà dopo. Negli anni 80 i fratelli musulmani riescono, appunto, riamalgamando tutta la contestazione islamista e anche quei leader studenteschi islamisti che avevano agito dalla fine degli anni 70, riprendono piede all'interno dei collettivi universitari, all'interno delle corporazioni e sindacati. Ma quali sindacati? E qui è importante fare una distinzione. Stiamo parlando sempre e solo dei principali sindacati professionali. Quindi avvocati, ingegneri, medici, sindacati fortemente politicizzati, ma che non avevano un consenso di massa, non avevano una base sociale di massa, no? Lì però in questo ambito i fratelli musulmani arrivano quasi a monopolizzare e a prendere il controllo di questi ordini professionali che avranno e giocheranno un ruolo importantissimo nella contestazione del regime di Mubarak negli anni 90, ma appunto sempre a livello di rivendicazioni di diritti civili e politici, senza mai un vero e proprio programma sociale. Perché vi dico questo? Perché è importante? È importante comprenderlo perché quando abbiamo prima fatto riferimento alle rivolte che dal 2004 in poi si sono svolte nelle zone industriali dell'Egitto, quindi Mahal al-Kubra e tutta quella zona del delta del Nilo, lì i fratelli musulmani non attecchirono o comunque non sono riusciti ad esercitare un peso preponderante nelle rivendicazioni, soprattutto perché loro dagli anni 80 hanno deciso quasi di ignorare le richieste di carattere sociale e un'elaborazione di un nuovo paradigma sociale che alternativo a quello proposto dal regime di Sadat, di liberalizzazioni, e poi anche da Mubarak, perché comunque il programma di liberalizzazioni che Mubarak porta avanti in realtà era in perfetta continuità, anzi ancora peggio di quello proposto da Sadat. Quindi movimento di contestazione del regime dagli anni 90, soprattutto di marca islamista, fratelli musulmani che riescono ad assorbire la maggior parte dei movimenti islamisti all'interno dell'Egitto, ma non tutti. Ricordiamo, chi di voi ricorderà, insomma qualcuno di voi lo potrà ricordare, negli anni 90 ci furono una serie di attentati terroristici in Egitto, soprattutto nella zona di Luxor, sì, nell'Alto Egitto, che cercava di spaventare o comunque di minare l'Egitto in una delle sue principali risorse, che era appunto quella del turismo. Lì il regime, dagli anni 90 in poi, ha tentato sempre di strumentalizzare questi attacchi terroristici e la cosiddetta minaccia islamista per reprimere gli stessi fratelli musulmani, che in realtà hanno, dagli anni 70 in poi, hanno sempre rifiutato un atteggiamento violento per la presa del potere, proprio perché scottati da quelle forti repressioni che avevano subito all'epoca nasseriana. Quindi bisogna fare chiarezza sulla galassia di movimenti islamisti che si sono sviluppati in Egitto dagli anni 70 in poi, perché altrimenti rischiamo di entrare nella logica di un Frattini che appunto proprio 3-4 giorni fa diceva che sosteniamo Mubarak per il pericolo islamista. Quindi, tra l'altro, anche adesso, e questo non è che per cambiare data, però anche in questa manifestazione dal 25 gennaio a ieri non c'è presenza da tutti coloro che i testimoni forte nella piazza dei fratelli musulmani. Assolutamente no, infatti è importante questa carrellata, diciamo, storica, forse in parte un po' nozionistica, ci permette però di comprendere perché oggi quando vediamo le dirette delle catene internazionali, sia arabe che francesi, inglesi, insomma, non vediamo bandiere verdi, per esempio, assolutamente. Non ci sono slogan come quelli che venivano prodotti nel 2005-2006 che dicevano l'Islam è la soluzione, no? In questo caso uno degli slogan principali era Shab Yurid Skat Anizam, cioè il popolo vuole la fine, la caduta del regime, non si chiede nient'altro. Infatti pure su questo bisognerà parlarne. Hanno proprio detto, cioè, qualche giorno fa, che comunque non si sarebbero presentati alle elezioni. Perché? Perché appunto vi è questo pregiudizio, diciamo, tra virgolette. Io non sto difendendo i fratelli musulmani, lungi da me, perché però bisogna capire bene quali sono le forze in gioco. I fratelli musulmani appoggiano il Baradei adesso, appoggiavano fino a qualche giorno fa, mo sta a cambiare, però per loro che non c'entra niente con i movimenti, era un passaggio possibile. Assolutamente. I fratelli musulmani si sono trovati da una parte in imbarazzo per quelle proteste di carattere popolare di cui vi parlavo prima, dal 2004 fino al 2008, da una parte. Dall'altra si sono trovati in imbarazzo anche nei confronti di quei movimenti come Kifaya, per esempio, che cercavano un contrasto netto, un'opposizione netta al regime. Perché? Perché molto spesso i fratelli musulmani hanno cercato accordi con lo stesso regime. Le negoziazioni tra il regime e i fratelli musulmani non si sono praticamente mai fermate all'epoca di Mubarak. E non solo, i fratelli musulmani oggi stanno lottando principalmente su un altro fronte, che non è quello interno, ma è quello internazionale. Oggi loro, e questo lo si vede da un esempio che vi citerò a breve, quello che cercano principalmente è proprio un consenso internazionale per essere legalizzati come partito. Ricordiamo che i fratelli musulmani non sono mai stati legalizzati come partito, sono un movimento tra virgolette clandestino, anche se poi hanno palazzi e appunto ospedali, un ospedale che sta per essere costruito proprio al Cairo. La cosa importante è questa: l'anno nel 2009, quando Obama, se vi ricordate, fece un discorso all'Università del Cairo, no? Questo famoso discorso propagandistico sulle nuove sorti del Medio Oriente e la partecipazione, il sostegno accordato dagli Stati Uniti, i fratelli musulmani erano lì in prima fila. Si parlò, ci fu uno scoop di un giornalista inglese, di cui adesso non ricordo il nome, di accordi o comunque di conversazioni che si ebbero già nei mesi precedenti a questo intervento di Obama al Cairo, conversazioni che ebbero luogo, comunque che si svilupparono soprattutto negli Stati Uniti, perché ricordiamo che il movimento della fratellanza musulmana ha oggi cellule o comunque associazioni ad esse affiliate o comunque simili per strutture e per ideologia anche in Europa e negli Stati Uniti. Quindi in realtà i fratelli musulmani, a mio avviso, questo è il mio modesto parere, stanno cercando di ottenere una maggiore legittimazione internazionale, molto spesso a scapito anche dei processi insurrezionali che si stanno svolgendo in Egitto stesso. E questo appunto per spiegare un attimo l'atteggiamento prudente, diciamo, dei fratelli musulmani, che non si sono mai messi in prima fila. L'unica cosa che loro rivendicano, o comunque che chiedono con insistenza negli ultimi giorni, è di non discutere con Suleiman. Suleiman appunto è il vicepresidente egiziano che adesso sembra aver preso il potere in maniera, anche se in maniera informale, e che apparentemente dovrebbe essere sostenuto anche dagli Stati Uniti. I fratelli musulmani conoscono bene Suleiman, conoscono bene i servizi segreti egiziani e la repressione che hanno costantemente subito negli ultimi anni, ed è per questo che vogliono evitarlo. Quindi tu dici che comunque le persecuzioni che hanno subito in questi giorni, cioè anche nella sede appunto una delle sedi dei fratelli musulmani, va letta in una chiave intimidatoria per evitare che i fratelli musulmani, cioè, comunque si presentino o cerchino di cavalcare la protesta? Dal mio punto di vista lo sparacchio dei fratelli musulmani adottato da Mubarak è un refrain, un discorso che lui applica ormai da anni proprio come scusa soprattutto nei confronti dell'Occidente. Questo è vero. Vi è una paura anche interna all'Egitto, questo non lo si può negare, perché i fratelli musulmani oggi per esempio parlano di una repubblica egiziana fondata sulla Costituzione, dove i copti potrebbero avere gli stessi diritti dei musulmani. Però vi è una paura da parte dei copti, per esempio. I copti su questo hanno un pregiudizio molto forte nei confronti della fratellanza, anche perché la fratellanza al suo interno non è compatta. Questo bisogna sempre ricordarlo. Vi sono varie anime, da un'anima più conservatrice, moderata, che è appunto quella della guida suprema, che sta a capo del movimento, ha un'anima più politica, riformista, per esempio di questo dell'Ariane, che è il portavoce del movimento. Quindi in realtà anche qui non è semplice seguire quale linea poi, oppure comprendere quale linea adotterà la Fratellanza Musulmana una volta legalizzato, perché per ora quello che loro rivendicano e chiedono, reclamano con maggiore insistenza, è una legalizzazione come formazione partitica, quindi poter uscire allo scoperto, e per ora non quindi, interessa loro prendere il potere direttamente, cioè, anche perché che adesso storia... loro non si, cioè, rimarranno comunque in una posizione ben depilata. Ma sì, hanno comunque una storia di 80 anni di repressione, sanno benissimo gestire questi momenti e sanno che non è un qualcosa che si svilupperà nei prossimi mesi. Per loro il lavoro è un lavoro di lungo periodo, quindi costruire consenso nel lungo periodo, quindi non interessa prendere il potere in questo momento. Certo è che vi sono altre forze istituzionali che, come in altri paesi del Medio Oriente, si sono rivelate insufficienti nel catalizzare le spinte comunque contestatarie della popolazione. Vedremo, ci sono per esempio movimenti di cosiddetti neoliberali come il Neo-Wafd, ci sono movimenti, c'è cioè il movimento socialista, il partito socialista che si chiama Raggruppamento, il Tajammu. Vi sono dei movimenti che fino adesso, dei partiti che fino adesso in realtà hanno svolto un ruolo marginale, molto spesso prendendosi, accontentando delle briciole che Mubarak aveva loro lasciato. Indicativo da questo punto di vista l'atteggiamento dei partiti, di questi partiti, alle elezioni dell'assemblea del popolo, del parlamento diciamo egiziano, che sono avvenute alla fine del 2010. In quel caso l'unica persona che rivendicava il boicottaggio diretto del processo elettorale era paradossalmente una persona al di fuori di tutti i partiti, ovvero quel El Baradei, che oggi sembra legittimato dalla piazza come il mediatore principale per una fase di transizione all'interno del governo egiziano e dell'Egitto. Gli altri partiti in realtà parteciparono tutti, nonostante le forti repressioni che avevano subito prima, i brogli che si erano verificati già nelle tornate elettorali precedenti, nonostante le leggi e le modifiche che Mubarak aveva prodotto negli ultimi 2 anni per cercare di limitare le opposizioni in una maniera ancora più forte, nonostante tutto questo loro hanno deciso e decisero di partecipare alla tornata elettorale, se non poi andarsene dopo il primo turno della tornata per i forti brogli che avevano, diciamo, un'altra volta pagato sulla loro pelle. Allora, prendiamo un altro piccolo stacco musicale e poi parliamo più propriamente dei partiti. Assolutamente. Noi del Baradeo, che non è l'esponente di un partito. Esperienza all'estero, era appunto capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, una figura considerata, diciamo, dall'establishment europeo occidentale quasi come indipendente, una figura che in realtà non si è mai applicata in un'attività politica o partitica in Egitto fino a questo momento. Figura che è riuscita però a catalizzare l'interesse, il sostegno della maggior parte dei partiti politici egiziani. La storia dei partiti politici egiziani, dell'opposizione cosiddetta laica, è una storia di, purtroppo bisogna dirlo, di insuccessi, questo dall'epoca liberale in poi, dall'epoca del partito wafdista, che era appunto il protagonista dell'indipendenza, anche prima, insomma, durante l'epoca liberale. Wafd infatti voleva dire delegazione, significa delegazione in arabo, perché era il partito che, costituito da Zaghloul, rivendicava un'indipendenza egiziana nei confronti della Gran Bretagna, partito che, scusate il termine, si sputtano subito dopo qualche anno, scendendo a compromessi con la Gran Bretagna in funzione antimonarchica. Un partito elitario, comunque un partito che attraeva l'interesse della grande borghesia egiziana, nonché dei grandi proprietari terrieri egiziani, che però erano soffocati dall'economia coloniale britannica. Partito che poi ha avuto come suo alter ego un partito Neo-Wafd, nato in Egitto all'epoca del, appunto, di Sadat. Perché questo? Perché Sadat, dopo il partito unico nasseriano, attuò una pseudopolitica di pluripartitismo, nel senso che dal partito unico nasseriano lui scompose questo partito unico, ne fece 3 partiti, uno di centro, l'attuale Partito Nazionale Democratico, uno di centrodestra, diciamo, uno di centrosinistra, tutti e 3 asserviti al regime, ma che dovevano contenere e comunque cooptare all'interno del regime stesso i discorsi di sinistra, di destra e di centro che venivano prodotti in Egitto all'epoca. Successivamente solo sono nati alcuni partiti cosiddetti indipendenti, come il Tagam, appunto il raggruppamento socialista, che però partiti che non adottarono mai, non riuscirono mai in una essenziale pratica sul territorio. Questo è un problema sostanziale del regime egiziano, ma non solo, anche in Tunisia ne abbiamo parlato, si è prodotta una situazione simile. Partiti che non avevano influenza in tutto il paese, molto spesso non erano capillari nella loro struttura né erano coerenti nei discorsi di contestazione del regime, scendendo molto spesso a patti con il regime stesso per, come diciamo prima, prendersi proprio le briciole. El Baradei oggi è diventato, diciamo, si è messo a capo di questo movimento nazionale per il cambiamento, un movimento che si vuole trasversale, un movimento che cerca di prendere dalle varie forze partitiche. Accanto a questi partiti, diciamo, di tradizionali, vi sono poi dei movimenti che sono nati da quelle rivolte dal 2004-2008, si sono sviluppate nel delta del Nilo, come il cosiddetto movimento del 6 aprile. Questo è un movimento che appunto è erede, prende il nome da quel famoso sciopero generale del 6 aprile del 2008, che ha coinvolto migliaia di persone in tutto l'Egitto, e che per questo forse è l'unico movimento che associa rivendicazioni di carattere socio-politico a socio-economico a rivendicazioni di carattere politico. Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è che in realtà non vi è nessun partito politico laico in grado di promuovere o di proporre un'elaborazione teorica coerente, un percorso di lungo periodo volto all'emancipazione del popolo egiziano, perché quando vediamo oggi l'insurrezione che è in corso, dobbiamo sempre tenere presente che l'unico motivo di coesione in questo momento è la cacciata di Mubarak. Non si discute dei rapporti potremmo dire delle relazioni di produzione, davvero di un sovvertimento dei mezzi e del controllo dell'ordine economico presente ora in Egitto, e sicuramente non potrà essere un El Baradei a stravolgere la situazione. Quindi in realtà manca oggi un partito, o comunque un movimento che si possa fare portatore di istanze veramente rivoluzionarie. Ecco perché oggi non possiamo parlare in realtà di insurrezione, di rivoluzione, ma solo di una insurrezione dal basso, sicuramente, ed è anche per questo che è difficile oggi cercare di immaginare un esito veramente come dire positivo per la popolazione egiziana, soprattutto nei propri legami con la base. Io vorrei farti una domanda soprattutto sul ruolo, insomma, dell'esercito, delle forze armate. È di qualche giorno fa un articolo online che appunto parla della Tunisia e dice che all'inizio di questa settimana, precisamente intorno al 31 gennaio, il generale Rashid Dammar, che è capo dell'esercito, ha avvertito la popolazione soprattutto che se, insomma, con le proteste continuavano, cioè, ad accendere il paese, ci sarebbe stato il rischio di una dittatura, cioè di nuovo dell'instaurazione di una dittatura, probabilmente da parte comunque di quelli che erano gli ex, diciamo, partigiani tra virgolette di Ali, nel senso comunque parte del suo entourage politico. Tu pensi che questo, cioè, questa possa essere una prospettiva anche per l'Egitto? Cioè, quale sarà il ruolo, secondo te, dell'esercito? Prospettare adesso un'attitudine lineare dell'esercito, io non ho le competenze, perché comunque è davvero molto ambiguo quello che sta avvenendo. La popolazione si dice vicina all'esercito, e l'esercito molto spesso anche enfatizzato attraverso i media internazionali che ci facevano vedere queste belle immagini dei soldati che abbracciavano la popolazione a Midan Tahrir, la piazza che è diventata il fulcro della rivolta in Egitto. Il problema è che bisogna vedere l'establishment, cioè dall'alto, chi è che poi decide veramente come l'esercito si dovrà comportare. Io nei giorni passati, quando vedevo questo esercito immobile nella piazza con gli scontri che avvenivano tra sostenitori, diciamo queste squadracce di Mubarak e gli oppositori, davvero ero preoccupato, perché sembrava che l'esercito aspettasse solo un ordine per prendere una direzione, che fino a questo momento effettivamente non ha preso. è evidente che l'esercito nella storia egiziana e nell'identità del popolo egiziano è considerato come il garante dell'indipendenza nazionale. Il problema è anzitutto che sicuramente dall'esercito non possiamo attenderci un cambiamento rivoluzionario all'interno dell'Egitto contemporaneo. Sicuramente è oggi uno dei maggiori interlocutori degli Stati Uniti per una transizione cosiddetta morbida, lineare, come loro definiscono, come definita da loro, da parte appunto degli Stati Uniti, questo periodo. Quindi non possiamo in realtà decidere o comunque definire oggi la posizione. Certo è che prima o poi dovrà prendere una posizione netta nei confronti o dei sostenitori pro Mubarak e quindi del regime attualmente ancora al potere, oppure della popolazione. Però io credo che non abbia un ceto politico in grado di assumere direttamente compiti di governo sul modello, per esempio, latinoamericana, dove non possono sì dare appoggio, infatti finora si è barcamenato un po', potrà dare appoggio all'una o all'altra forza, non è che ci sono degli uomini politici militari in grado di assurgere al governo. Perché sinceramente non credo che la piazza egiziana da questo punto di vista possa accettare ancora un governo militare con una legge d'emergenza. Ricordiamolo che l'Egitto, in Egitto vige una legge d'emergenza dall'81, cioè dall'epoca di Mubarak, quindi che vieta qualsiasi tipo di partecipazione, qualsiasi tipo di diritto associativo. Quindi insomma non penso che la popolazione egiziana, per la repressione che ha subito fino adesso e per come ha resistito fino ad oggi, possa accettare una situazione del genere. Bisognerà vedere comunque nei giorni, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quello che accadrà. Altra piccola considerazione, ora ruolo importante da questo punto di vista, almeno deve accordarsi anche al contesto internazionale e transnazionale all'interno della sfera araba, perché se l'Egitto si è sollevato solo grazie appunto al caso tunisino, anche se, come abbiamo visto, vi erano dei fermenti che presenti nella società già dal 2004 in poi. E poi il contesto israeliano non dobbiamo dimenticarlo, cioè le autorità israeliane, come queste hanno sostenuto Mubarak fino a questo momento, il legame che hanno cercato sempre di impedire tra la popolazione egiziana e la popolazione palestinese è un motivo, cioè è un problema serio, perché se putacaso l'Egitto prenderà e riuscirà ad ottenere un governo veramente capace di ascoltare la popolazione, il sentimento, non dico forzatamente anti-israeliano, ma comunque pro-palestinese in maniera netta, dovrà emergere. Quindi anche l'esercito ricorda ancora quel grande massacro appunto del 67, assolutamente sì, è stato uno appunto ricordiamo l'esercito, c'è ancora le ferite aperte, quindi non sarà mai l'esercito filo israeliano, l'esercito egiziano. Per cui, siccome questo ruolo comincia per non parlare appunto poi dell'esercito come momento di riscatto nazionale del 73 con la guerra del Kippur, l'unica guerra che diciamo non ha perso. Quindi vediamo un attimo le altre forze politiche, che piccole o grandi, che potrebbero interagire, perché secondo me è la lettura, ad esempio, di oggi dell'Europa e che di Obama, dicevano via subito Mubarak, ma perché? Perché non vogliono far radicalizzare la piazza. È chiaro che più stanno, assolutamente, lo conosciamo anche o in tutto il mondo, più la piazza sta lì e più si radicalizza, è ovvio, no? E quindi cercano, siccome però pare che Mubarak resista, quindi è probabile che si radicalizzerà la piazza, e allora le forze politiche, anche piccoli gruppi, possono avere un ruolo dentro questa piazza. Sì, ci sono dei partiti come, per esempio, non so, adesso mi ricordo il partito, cioè mi viene in mente il partito Al-Ghad, di appunto significa il domani, fatto da Ayman Nur, che è un partito però liberale, nel senso sicuramente partiti liberali o neoliberali di natura laica esistono adesso in Egitto, si sono moltiplicati anche diciamo proprio negli ultimi anni. Il problema è che non so che funzione, come dire, egemonica potranno questi avere nel movimento, perché hanno adottato delle istanze, nel senso, per esempio, questo Ayman Nur, che è il leader del partito Al-Ghad, è una personalità importante in Egitto, che è diventata importante perché gli era stato vietato di partecipare alle elezioni presidenziali durante appunto l'ultima tornata del 2005, l'ultima tornata del 2005. È stato arrestato, quindi ha avuto una mediatizzazione anche a livello di stampa egiziana, che comunque negli ultimi anni ha avuto una maggiore libertà d'espressione rispetto al passato, che ha permesso di ottenere questa popolarità. Ora bisognerà vedere però se questo partito riuscirà poi a rispondere alle esigenze della popolazione, perché poi da questo punto di vista non si sono mai preoccupati questi stessi partiti di fare o di elaborare un programma politico sociale, se non certo. Appunto coalizzandosi nella caduta di Mubarak e tutto. Quindi io il tagammo puro sono sul piano abbastanza... della forma democratica, però sì, però ecco sì. le rivendicazioni sociali fino a poi vengono fuori sicuramente. Quindi, ecco, ci stanno dei partiti diciamo più marcatamente di sinistra. Il Partito Comunista adesso sinceramente non ha più storia, ora è brutto dirlo, però il Movimento Comunista in Egitto è passato da una fase elitaria degli anni appunto dell'epoca liberale, dove era dominato da una componente egiziana ebraica, ad una fase di intellettuali sparsi che cercavano appunto durante l'epoca nasseriana di distinguersi da Nasser anche in clandestinità e che poi furono cooptati dallo stesso Nasser, ad una fase di completa decadenza degli ultimi 20-25 anni. Quindi in realtà io non vedo soluzione da questo punto di vista fino adesso, poi magari il problema è che in realtà poi ci sono, questi sono gli organi istituzionali, poi quelle sommosse, quelle migliaia, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone che si sono rivoltate dal 2004 al 2008, che hanno chiesto e che rivendicano ancora oggi la costituzione di sindacati indipendenti, quindi al di là del sindacato nazionale che è totalmente gestito dal regime. Bisognerà vedere queste persone, queste soggettività, che sono per ora delle soggettività fluide, comunque non inquadrati in un partito, come poi cercheranno di avere una maggiore voce in un nuovo contesto magari parlamentare. Questo. Qui l'agenzia di poco fa ci dice che per oggi a mezzogiorno, quindi tra un po', credo che sia l'una, mezzogiorno, c'è cioè un'ora, non so quanto c'è tra un'ora sì, sì. Quindi tra un po' ci sarà manifestata, è stata convocata ad Alessandria una manifestazione. Quindi saranno ovviamente, sono previste, visto due righe, sono previste tantissime persone, quindi incalza la piazza assolutamente. Quindi, da stamattina già erano assemblati comunque a Midan Tahrir ancora. Quindi è possibile, poi non lo sappiamo, però è possibile che dentro questa piazza che è come una ma le rivendicazioni sociali esatto. qualcuno insomma emergerà. Le rivendicazioni sociali restano partiti dalla proprio dalla, anzi diciamo che il movimento promotore è stato proprio un movimento di carattere socio-economico in queste zone industriali, perché se fosse stato solo per movimenti come Kifaya, che avevano avuto una grandissima copertura mediatica a livello internazionale, ma che poi tra le masse non avevano avuto consenso, cioè si vedeva ed era esplicita proprio, era emblematica la cosa delle manifestazioni di Kifaya sostenute dai fratelli musulmani, dove appunto avevano una grande quantità di persone, e le manifestazioni di Kifaya dove in preferenza dei musulmani non c'erano, e lì le persone erano molto molto poche, perché comunque alla fine non vi erano rivendicazioni di carattere sociale che potessero davvero portare le masse ad avvicinarsi a questo tipo di movimenti. Quindi vedremo se queste soggettività, che per ora non sono partitiche ma sono soggettività politiche, anche se non ben inquadrate a livello istituzionale, cosa produrranno nei prossimi conquisteranno un'adesione di massa ovviamente, però sul programma che questi insorti reclamano, perché appunto, il problema sembra, la contraddizione però è questa: la partenza di mobilitazione, quello che ho capito io, poi vediamo se è vero, la mobilitazione è partita dai rivendicatori tutte sociali, la risposta tenta di essere tutta formale, cioè sulle regole, sui meccanismi per ora, e c'è una discrepanza che è un vuoto, in questo vuoto possono sorgere dei soggetti. Se pensiamo che appunto i partiti dell'opposizione dicono noi non avvieremo nessun tipo di dialogo fino a quando Mubarak non andrà via. Questo è anche per nascondere in parte un'impreparazione degli stessi partiti a un programma sociale, a rispondere poi dopo alle esigenze che queste masse certo non era previsto, nessuno insomma si aspettava questa mobilitazione. I livelli di povertà della stessa Cairo, che questa megalopoli spaventata, sono quelli che dà l'ONU, sono tremendi, sono quindi, figuriamoci al di sotto della soglia di povertà, e queste sono richieste sociali. No, ma sono richieste sociali vere, quindi appunto bisogna vedere solo che esito politico avranno, e se adesso chi prenderà il potere a livello formale riuscirà davvero a ascoltarli, perché altrimenti dal mio punto di vista le mobilitazioni non si fermeranno, nel senso non si arresteranno al solo cacciare Mubarak, quindi bisognerà vedere davvero nei prossimi mesi che cosa succede. Certo è, speriamo che non accada quello che sta avvenendo in Tunisia, perché adesso in Tunisia hanno fatto, lì hanno fatto il passaggio, cioè la soluzione formale, ecco, istituzionale, come risposta falsa a una rivendicazione sostanziale. Talmente assolutamente, tanti interessi a livello internazionale pure, quindi gli stessi partiti, addirittura lì in Tunisia, hanno chiesto loro di rinviare le elezioni ad un periodo successivo ai 60 giorni che invece prevedeva la Costituzione. Questo sì, perché sì, i partiti stessi non erano preparati ad una situazione del genere. Speriamo che in Egitto in realtà la piazza possa continuare a sostenere, a rivendicare. Poi in Tunisia, e non basta nascere un soggetto anche politico in grado di dare risposte a queste cose. Adesso però lo vedremo prossimamente. Volevi dire qualcosa, Ottavio? Sì, prendi. Volevo dire alcune cose. Allora, innanzitutto io volevo sapere anche da te se so bene questi pensieri. Allora, io penso una cosa, e una delle cose che ha dato abbastanza, diciamo, spunto a questa, diciamo, rivolta è, diciamo, la pace in Medio Oriente, che svilupperebbe in pratica molto i commerci e l'interscambio, e quindi l'emergere, diciamo, di aspirazioni di ceti nuovi che si fanno avanti. La pace in Medio Oriente, e quindi io penso che questa cosa qui va inserita in questo quadro anche, insomma. E dall'altra, una domanda che ti facevo, insomma, a me interessa capire, secondo te, perché le ragioni per le quali, diciamo, gli operai non sono così, diciamo, presenti. È chiaro che le due cose che dicevo sono collegate, nel senso che appunto c'è più emergere di ceti, diciamo, intellettuali, e che in pratica anche i giovani studenti che si farebbero avanti in una situazione di società che, no, diciamo, basata più sugli scambi, sì, sarebbero più disposti a emergere che non settori operai che sarebbero compressi. No, fortunatamente, però, no, come dicevi tu, però fortunatamente, come abbiamo detto anche prima, dal 2004 c'è stata una mobilitazione di operai, forte, ma stiamo parlando di migliaia, di centinaia di migliaia di persone, con scioperi generali anche molto prolungati, quindi fortunatamente... Ma perché adesso? No, ci sono anche adesso. Il problema è che se tu senti Rai News 24, giustamente loro non hanno strumenti per comprendere bene la composizione. Per esempio, si parla poco delle donne anche, vedi, no? Le donne, della partecipazione delle donne alla mobilitazione. Perché? Perché nella piazza magari molto spesso se ne vedono, tra virgolette, se ne vedono poche, ma in realtà il sostegno anche dalle case, portando i viveri e tutto, anche perché, insomma, non è una cosa è pur vero che va detto che questa fascia di paesi, diciamo, al di sotto del mondo sviluppato, per capirsi, no? Quelli una volta si chiamava il secondo mondo, ma a parte le definizioni, questa crisi ha pesato anche molto sui settori della piccola borghesia, l'ha veramente falcigliati. Come no? Anche in America, negli Stati Uniti è successo, immaginiamo tutte le fasce, per esempio gli impiegati pubblici, il piccolo commercio, è stato veramente falcigliato. Quindi è vero che in questa situazione, così in Algeria succederà, così è successo in Tunisia, così probabilmente succederà pure in Marocco, e come avviene in Egitto, è chiaro che adesso si presenta, ci stanno gli operai dentro, ma ci stanno pure questi settori del commercio. Il popolo del souk in questi paesi, che è molto sviluppato, che è il piccolo commercio, oppure il piccolo artigianato, adesso la situazione è confusa. No, è che appunto la mobilitazione oggi va appunto al di là di quella, per esempio, promossa dagli operai o dalle classi operaie in alcune zone specifiche dell'Egitto, no? Coinvolge queste masse, ma non solo. Figuriamoci se una classe operaia o comunque un movimento operaio come quello avvenuto e prodottosi in Egitto dal 2004 al 2008, dopo quello che ha rischiato da solo, perché lì erano davvero da soli, non avevano nessuno che li sosteneva lì, perché vi era un regime davvero fortemente repressivo da una parte che sembrava impossibile da scardinare. Figuriamoci se loro oggi non partecipavano a queste manifestazioni. Vi partecipano in maniera anche molto attiva, però sono circondati da altre forze, dalla forza più istituzionale e moderata alla forza islamista, quindi in realtà vi è appunto una galassia di realtà che oggi si oppongono. Il problema è vedere chi prenderà poi il sopravvento dopo, cioè se queste masse operaie, che comunque hanno rivendicato con forza delle istanze di carattere socio-economico e non solo, perché oggi ci sono movimenti anche politici, se queste masse dopo tenteranno o comunque di costruire una soggettività politica capace di dialogare con le altre o di prendere proprio a livello egemonico oppure ci vuole una forza politica in grado di costruire in questa fase, però io con molta difficoltà, perché l'Egitto è in crisi spaventosa, quindi in una fase di crisi e di difficoltà proprio dell'economia anche egiziana, costruire una sorta di patto sociale tra vari strati, tra vari soggetti di classe, come è successo in altri posti di, perché diciamo, poi appunto ricordiamo che queste rivolte operaie inizialmente sono nate solo da settori pubblici, certo, ma poi dopo si sono estese anche al settore privato, quindi anche interessando multinazionali, imprese gestite dalla banca MISR, quindi cioè capitali che vengono anche dall'estero, e quindi lì il disordine e anche la preoccupazione a livello internazionale e l'afflusso di capitali in Egitto potrebbe anche ridursi. Quindi bisogna vedere. Per il momento, quando un Frattini dice io ho sentito gli imprenditori italiani che vogliono rimanere in Egitto, e grazie al cavolo che ci vuole rimanere se rimane questa situazione se rimane questa situazione qui, se cambiano le cose speriamo, forse no, però appunto sono situazioni talmente caotiche e confuse che adesso è davvero difficile fare un'analisi delle prospettive che si possono Direi appunto seguiamo settimanalmente questa vicenda da questi microfoni, con questa trasmissione, poi ovviamente con tutto il resto. Intanto ricordiamo appunto ancora i due appuntamenti di oggi pomeriggio e di domani pomeriggio, indetti dalla comunità appunto immigrati del mondo così tunisini egiziani in primis, egiziano, ma penso esatto. Allora, per oggi pomeriggio alle 15 a Piazza della Repubblica, ripetuta domani sempre alle 15 a Piazza della Repubblica, quindi sabato e domenica alle 15 Piazza della Repubblica, per manifestare anche quindi è rivolta anche ai cittadini italiani, ovviamente spero che dovremmo almeno solidarizzare da questo punto di vista, anche perché i problemi ci potrebbe insegnare qualcosa e potremmo costruire un interscambio sul terreno della protesta sociale. E quindi l'appuntamento è oggi e domani alle 15 alla Piazza della Repubblica. Io penso che possiamo rimandare al prossimo sabato per cercare di discutere un po' su alcune dinamiche, su come si stanno e poi perché la realtà ci offrirà sicuramente delle soluzioni. Mettiamo adesso un piccolo stacco musicale.